vedi il Brasile sulle spiagge dei turisti, ti diverti da impazzire, la piscina, poi la sauna, il salone delle feste, quanto lusso c'è dovunque, tra le palme e le foreste. Fuori invece c'è un bambino che si gira nella prata per trovare un michelino, tu t'aggiusti un po' la patta, non ti devi preoccupare, tu sei lì per riposare, non uscire dal villaggio, ti potresti impressionare, non uscire dal villaggio, che ci vuole del coraggio, non uscire, lascia stare, ti potresti impressionare, non uscire dal villaggio, che lo sai non ti conviene, tu ti devi divertire, la miseria non sta bene. Più cretine, cocco, sole, palme belle, poi coralli, collanine, quel bambino nei suoi stracci non ci deve rimanere, agli amici non interessa, su si sposti per piacere, sono belle le vacanze, sono belli questi posti, abbiamo scelto proprio bene caro, siamo proprio tipi tosti. Sulla strada del ritorno tu ti acquisti un ricordino e quel bimbo corre ancora per trovare un michelino. Non uscire dal villaggio, che ci vuole del coraggio, non uscire, lascia stare, ti potresti impressionare, non uscire dal villaggio, che lo sai non ti conviene, tu ti devi divertire, la miseria non sta bene, non uscire dal villaggio, che ci vuole del coraggio, non uscire, lascia stare, ti potresti impressionare, non uscire dal villaggio.